Riflessi d'oltretevere. Una buona domenica da Katia Caramelli. Puntata di oggi interamente dedicata a Karol Wojtyła. Il Papa polacco presto infatti sarà beato, probabilmente in ottobre. E in un libro appena pubblicato, Perché è santo e che non ha mancato di suscitare polemiche, il postulatore della causa, Monsignor Slavomir Oder, ha deciso di condividere con i fedeli quanto scoperto durante questi anni successivi alla morte. Ho vissuto il processo di beatificazione veramente come un dono, un arricchimento spirituale, e penso che sia da parte mia quasi un dovere poter condividere con gli altri che mi hanno sostenuto in questo processo, con la preghiera, con l'aiuto, e che aspettano la sua conclusione. Ecco, il Santo Padre, c'è scritto anche nel libro, diceva: tutti mi tentano di capirmi dal di fuori, ma mi si può capire solo dal di dentro. Che cosa voleva dire? La chiave di lettura della figura di Giovanni Paolo II sicuramente passa attraverso la sua spiritualità, attraverso la sua dimensione mistica, che senz'altro è la cosa che lo caratterizza in modo determinante, ma non è possibile leggerlo soltanto come un protagonista della storia umana. Era consapevole che il primo protagonista della storia umana è Dio, e lui si è messo a servizio di questa realtà. Perciò, in effetti, la sua mistica consiste soprattutto nel fatto di guardare il mondo con gli occhi dell'uomo, consapevole della presenza, dell'intervento, della protezione divina. Ecco, a proposito della sua mistica, nel libro si fa riferimento intanto alla grande capacità e necessità che aveva in ogni momento di pregare, e poi anche alla pratica della flagellazione. La preghiera era sicuramente lo strumento privilegiato per mantenere la costante comunione con Cristo, ma anche questi strumenti, che sicuramente possono oggi per la nostra cultura, sensibilità, suscitare qualche perplessità o curiosità, esprimono semplicemente il suo desiderio di partecipare pienamente al mistero di Cristo. E questa è la chiave di lettura. Lui diceva: completo le sofferenze di Cristo nella mia carne. Questo ha vissuto sia attraverso la mortificazione personale, quando le condizioni fisiche glielo permettevano ancora, sia poi con l'accettazione della sua condizione di malattia, che ha portato con tanta fede, tanta determinazione e tanto abbandono nelle mani del Signore. Nel libro anche la conferma di una lettera scritta da Giovanni Paolo II di potenziali dimissioni nel caso in cui fosse stato colto da un gravissimo impedimento. È un uomo che si rendeva conto di quella che è la situazione sua, soggettiva, però ecco, sempre alla luce della sua fede. Perciò, se da una parte dichiarava la sua disponibilità di sottomettersi, ecco, alla valutazione di quelle che sono le leggi della Chiesa oggettive, rimetteva tutta la sua vita nelle mani di Cristo, perché Cristo che gli ha affidato il mandato, è Cristo che poteva intervenire per porre fine. Quando fu pubblicato dopo la morte il suo testamento, emerse già da quelle carte che Giovanni Paolo II non aveva nulla di materiale da lasciare. Anche nel libro si sottolinea la sua volontà sempre di vivere in povertà. In effetti è una delle cose che mi hanno colpito maggiormente. Tra le varie virtù che abbiamo affrontato durante il processo, senz'altro dopo la sua fede e il suo amore e la sua speranza, è maggiormente emerge quella della povertà. In realtà era una caratteristica della sua libertà. Lui apparteneva totalmente a Cristo, e proprio questa comunione con Cristo lo rendeva l'uomo totalmente libero di fronte agli eventi della storia, in modo tale da poter dire liberamente quello che era la parola di Cristo, ma anche nei confronti del mondo materiale, delle cose, dalle quali viveva totale distacco. Nel libro si fa riferimento anche al presunto rapimento da parte delle Brigate Rosse. Sì, è un elemento che è apparso in una delle testimonianze comunque viene riportato come un fatto storico, non riguardava direttamente il processo come tale, ma è stato di nuovo un'occasione per dimostrare la fiducia che il Papa aveva nella protezione divina. Era un uomo prudente, perciò si rendeva conto di quelli che erano senz'altro gli eventi della storia, però con massima libertà e totale abbandono alla provvidenza divina ha affrontato anche questo problema. Ora c'è Don Willy Volonté, ci risentiamo domenica prossima. Più sacro che profano. Tra i temi che hanno dominato nelle ultime settimane l'informazione e l'opinione pubblica, la tragedia di Haiti, la visita del Papa nella sinagoga ebraica di Roma e il problema dell'immigrazione, saranno i temi che affronteremo nei nostri appuntamenti domenicali. Una vera tragedia quella di Haiti, che ormai chiamano l'isola della desolazione. E quando l'uomo sperimenta la desolazione, non può che aprirsi l'interrogativo grande come una voragine: che senso ha la vita? Dove stiamo andando? Qual è il fine di tutto? E per i più religiosi si chiederanno: Dio dov'è? Soprattutto la sofferenza dei bambini pone l'interrogativo più drammatico, come quello aperto dalle decine di ragazzini che sono morti sotto il crollo della loro scuola. Mi chiedo come si può rispondere a queste domande elementari dal punto di vista esistenziale, eppure fondamentali, come fece recentemente la nota astrofisica Margherita Hack, affermando che non credo che ci sia una risposta a queste domande. Le molecole del mio corpo dopo la morte si sgretoleranno e andranno a creare qualcosa d'altro. È inevitabile che di fronte ad una catastrofe di tale dimensioni l'intelligenza e il cuore pongano una domanda seria: se c'è un Dio, dov'è? Questa non è una bestemmia, questa è una domanda che l'intelligenza e il cuore urlano come una preghiera verso il cielo. Forse Dio permette questa domanda, Dio dove sei, perché Dio possa rivolgere a sua volta la stessa domanda a noi: e tu uomo dove sei? È drammatico dirlo, ma forse certe tragedie succedono perché l'uomo possa sempre tenere aperta quella domanda che gli consente di restare uomo, di poter esercitare il dovere di un appassionato amore per i suoi simili, e per non pensare che siamo milioni di molecole che alla fine si sgretoleranno nel nulla.